Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. 2.42 del mattino, continua il sabato notte del ristorante Convento di Ronato, che da sabato sera ormai si è trasformato in sabato notte con la nostra discoteca, e continua il giro delle chiacchiere insieme ai nostri festeggiati, che siano futuri sposi, future spose o festeggiati per un compleanno. Insomma, come sapete, accogliamo con piacere tutti coloro che abbiano voglia e motivo di festeggiare insieme a noi. Ora parliamo con un futuro sposo, con cui ho parlato un po' fuori onda. Ha avuto una bella giornata interessante e ce la racconta, e soprattutto ci racconta il perché della sua festa. Benvenuto. Ciao a tutti, sono Michele e vengo da Arco, di Trento, provincia di Trento, e oggi sono qua al convento per festeggiare il mio addio al nubilato. I miei magnifici amici mi hanno organizzato questa meravigliosa serata. In realtà è iniziata primo pomeriggio. Cioè, diciamo, iniziata col sole e finita con lo scuro. Esattamente, iniziata alle 15 di questo pomeriggio con un giretto in bici qua nella zona, o meglio nella là, zona là, nella zona, là, nella zona di Arco. Perché c'è un centinaio di chilometri più o meno. Sì, più o meno sì. Poi noi abbiamo preso comunque l'autobus. Beh, certo. Possiamo rientrare tranquilli. Anche perché venire in bicicletta era un po' complicato. Infatti volevo premettere che mi hanno fatto vestire da bicicletta, cioè, o meglio, da ciclista, e mi hanno fatto scorazzare nella zona di Arco, Riva del Garda, in bicicletta, con una graziella. Abbiamo fatto... Sì, diciamo, esatto, che non è il massimo del professionismo. Sì, però bellissimo, veramente sono stati meravigliosi, perché appunto mi hanno organizzato tutte le tappe nei vari pub di Riva e di Arco. Poi abbiamo preso il pullman direzione Lonato, giusto? Sì, Lonato. Lonato, e con tappa Affi, quindi immaginate che giro. Bello anche Affi, bello anche Affi, molto bello. Meravigliosa. E poi siamo finiti qua al convento, serata... Per il fine serata, certo. Veramente bella serata, e ricca di molte sorprese. E adesso vediamo di ultimare la serata qua. Tornare anche. Con le energie che ci rimangono. Bene, dai. Bene, mi fa piacere. Hai la passione, dicevamo, per la bicicletta? Sì, io pratico... Cross, da strada? Entrambi gli sport. Ah, davvero? Sì, sì, sì. Hai anche il fisico da ciclista, nel senso che sì. Si vede che... E che sei piazzato. A me piace molto il alternarmi dalla bici da strada al mountain bike, perché appunto la zona, per fortuna, dove abito, Arco, e prevede molti itinerari sia per la bici da corsa che per il mountain bike, quindi massimo divertimento. Agonismo o per conto tuo? No, anche agonista. Ah, anche agonista. Sì, è circa una ventina di anni che pratico parecchie gare, insomma, annuali, tempo permettendo. Adesso appunto, chiaro, l'8 settembre mi sposo, vedremo di... Beh, non credo smetterai. No, smettere no, però sicuramente... Beh, hai anche una squadra, quindi? Sì, vi allenate in gruppo? Sì, noi specialmente la domenica organizziamo... Sì, farete il lungo la domenica, esatto, e poi quando si riesce a ritagliarsi un attimino durante il giorno. Bravissimo. Durante la settimana, scusa. Durante la settimana che ci abbiamo un appuntamento, chi può esserci in base chiaramente al lavoro, e se no la domenica tappa fissa per un giro magari più lungo, ecco, sul lago. Tranne domani, spero. Domani salti. Domani sarà riposo forzato. Mi sa di sì. Anche secondo me con la graziella già hai fatto parte del tuo lavoro settimanale, perché andare in giro con la graziella c'è da spingere bene. Assolutamente, è stato uno spettacolo comunque con la graziella. Immagino. Da ciclista e a scorazzare da un bar all'altro, è stato veramente... Sono stati veramente bravi i miei amici. Posso chiedere, farti una domanda magari stupida, ma non tanto. Che macchina hai? Io ho un Touran della Volkswagen. L'hai scelta per la bici? Bravissimo. Vedi che già lì volevo andare. Cioè, è stata una scelta dettata dalla bicicletta, o al contrario, prima hai scelto la macchina e poi hai detto: ah cavolo, deve starci anche la bici? Assolutamente dettata dalla bicicletta, quindi per forza di cose deve starci la bici prima di tutto. Perché vabbè, c'è la possibilità di metterla sopra, certo, però certo. Non penso che sia così sicuro. E infatti negli spostamenti, perché appunto noi più o meno anche con la squadra ci spostiamo nel nord Italia con le competizioni, quindi è comodo metterla all'interno anche nei vari spostamenti, almeno sei tranquillo. Certo. E tu personalmente cosa preferisci, strada o sterrato? Ma guarda, ti dirò che se dovessi scegliere... Perché perdonami, io non ho parlato con tanti ciclisti, ho anche amici ciclisti, ma nessuno ha mai fatto entrambi. Cioè veramente non ne conosco uno che li faccia entrambi. Guarda, addirittura mi... Ma perché uno veramente preclude l'altro. Guarda, io ti dico, non riuscirei a scegliere né dal mountain bike né la bici da corsa. Addirittura è un paio di anni che mi sono incimentato anche nel triathlon. Sì, infatti immaginavo, perché è proprio anche il fisico da triatleta. Quindi ti dirò che veramente spazio su tutte le competizioni. Proprio io sono un amante dello sport, proprio a 360 gradi. Bene. E per fortuna la mia futura moglie condivide con me questa passione. Lo capisce, ti supporta. Esatto, noi ci siamo proprio conosciuti per il triathlon, perciò... Ma va, anche lei è una sportiva, quindi. Sì, sì, anche lei... E lei il triathlon ha fatto... è devastante, è veramente devastante. No, ti dico, è una disciplina veramente favolosa. Io mi sono avvicinato così, per quasi per sfida personale. Vabbè, certo. E beh, mi sono anche innamorato. Lì conosco tanti che partono dalla bici e poi la deriva automatica è finire nel triathlon. Assolutamente, perché comunque. E quante ore ci si allena a settimana per un triathlon? Io calcola che a settimana comunque faccio parecchi doppi, visto che doppi intendo come due allenamenti, cioè bici, corsa. Esatto. O comunque corsa associata al nuoto. Uno dietro l'altro? Sì, sì, sì. E questo perché appunto io lavoro in fabbrica. È chiaro. C'ho i turni, quindi ho parecchio tempo libero. Chiaro. È un parecchio tempo libero perché c'ho la passione da dedicare allo sport. Però ti dico, dal momento che mi sono avvicinato allo sport e al triathlon specialmente, mi ha proprio cambiato la vita. No, immagino. Ci sta avere una passione così forte. Mi fa piacere che la porti avanti. Qual è la distanza più lunga quindi che hai percorso? Io ho fatto un olimpico, quindi intendo dire 1500 metri di nuoto, sì. 40 di bici e 10 di corsa. 10? Solo 10? Solo 10. Non è una mezza sulla corsa? E quello andiamo al mezzo Ironman. Ah, è su Ironman, è vero, va sull'Ironman. Ironman l'ho fatto in realtà una versione un po' particolare, a Riva del Garda proprio quest'anno ho fatto il primo mezzo Ironman diviso in tre giornate, cioè significa la prima giornata c'era il nuoto, 1900 metri di nuoto, sì. La seconda giornata prevedeva i 90 km di bici e la terza giornata e quindi, appunto... riposavi nel mezzo? Sì. E riposavi tra il giorno e l'altro. E beh, ti dirò cioè, arci dolati con le stelle. Ti dirò che è stata veramente una cosa. Sembrava così presa sotto. Cioè, così un attimino alla leggera, invece è stato veramente un tre giorni intensi. Sì. Ma veramente, veramente. E cos'è meglio per il fisico? Cioè, farle tutte in una botta unica o riuscire a riposare allora, nel mezzo? Assolutamente sì, nel senso, no, ma più che altro per il fisico, è proprio per il discorso della soddisfazione personale, cioè riuscire a fare nella stessa giornata, se ci pensi, sì, 1900, no, è un'impresa. 1900 metri di nuoto, io parlo di un mezzo perché l'Ironman per me è una cosa che vedrò più avanti, perché lì parliamo certo. di tre. E beh, però si parte da lì per arrivare a. Esatto. Puntiamo, intanto stiamo bassi, poi puntiamo certo. alto. Sì, no, però dicevo, per il nostro fisico è meglio fare uno sforzo enorme tutto nella stessa giornata o riuscire a riposare nel mezzo? Cos'è che ci fa meglio? In realtà noi dipende tanto l'allenamento che uno comunque compie e durante prima la preparazione appunto per l'evento. Comunque secondo me che ho provato la gara in sé nella giornata è devastante perché comunque hai le tre discipline, comunque spingi al massimo su tutte e tre le discipline. Eh sì, perciò, anche perché la competizione, cioè lo sportivo di per sé è agonista e competitivo. Certo. Comunque anche la disciplina del mezzo che ho provato divisa in tre giorni e ti porta comunque tutti i giorni a dare il massimo. No, ma sai cosa? Forse mentalmente sei tarato per dire beh, tanto ho tempo per recuperare, quindi spingo di più. Bravissimo. E invece però comunque accumuli. E comunque tu spingi al massimo tutti i tre giorni al massimo e comunque il recupero quello che è, perché certo. ovviamente l'acido lattico non è che lo smaltisci in poche ore. Sì. Poi ci vuole tanto riposo tra una competizione e l'altra. Immagino. Ultima domanda, proprio curiosità, poi chiudiamo. Cosa mangi prima della gara? O magari dopo? No, allora... Cioè, 200 mucche praticamente, no? No. In realtà, guarda, che una gara veramente a alti livelli la prepari già nella settimana precedente. Cioè, con l'alimentazione comunque prediligi i carboidrati. Sì. Poi verso la fine comunque qualche un po' di proteine e un po' di dolci anche, sicuramente. Sì, certo. Comunque è una però cosa... Però gara a stomaco vuoto? No, o... stomaco vuoto no, ma non è che... 3-4 ore prima. Sì, tu fai comunque il tuo pasto regolare, quello che prevede la colazione normale, sì. perché comunque prima della competizione non stai lì a cambiare il tuo stile di vita, tra virgolette, sì. alimentare, sto parlando. Certo. Quindi in realtà normalissimo. Ma naturale, molto esatto. Naturale. Devi solo prepararti nella settimana prima della gara con un carico adeguato sia di carboidrati, proteine, ma anche tanti zuccheri. Ah però, vedi, molto interessante. Grazie mille per averne parlato con noi. Grazie e grazie voi. Per il tuo futuro matrimonio che hai festeggiato qui insieme a noi. Speriamo sia stata una bella serata. Un saluto anche ai tuoi amici, ho visto che sono tanti. Sì. E veramente in bocca al lupo per tutto. Grazie mille ancora Michele, alla prossima. Ciao, grazie a voi. Ciao.